tua chimera col voglio va. Vive il ricordo ancora dell'uomo che un dì distrusse la tua vita, poi se ne fuggì. Lo straniero sei tu che la mia gioventù hai sepolta così nel capriccio di un spezzato il mio cuore col bugiardo tuo amore. Con i germogli in fiore al sole d'aprì nacque da quell'amore d'immagine. Barbiero sei tu che la mia gioventù hai sepolta così nel capriccio di un dì con così come mal non curante del mal hai spezzato.